abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Amici miei, buongiorno. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, uno dei tanti effetti perversi della VAR, di cui torneremo naturalmente a parlare. E anzi, state con noi fino alla fine perché abbiamo un'idea. Abbiamo un'idea. Esiste un asse torinese contro la VAR? Lo scopriremo vivendo questa puntata di Tutti Convocati. Ma dicevo, uno dei tanti effetti perversi del VAR è stato quello di trascurare colpevolmente ieri la Formula 1 e Leo Turrini. Chiedo scusa, maestro. Sono qui, non c'è problema, di fronte al VAR io mi inchino anche sulla Piero Cormano, servirebbe, sai. Noi siamo bloccati qui per un tamponamento, non si riesce a capire chi abbia ragione e torto in questo incidente, e quindi c'è poco da fare. Aspettiamo che intervenga un vigile urbano, faccia quel famoso gesto degli arbitri indicando un televisore, forse riusciremo a ripartire. Una volta appurato di chi era colpa, l'unico che non è ripartito, lasciamelo dire, nella domenica di Sandokan è stato Kimi Raikkonen, nel quale manca solo che il famoso meteorite della pubblicità venga ad abbattersi sulla sua Ferrari. Da quanti anni non vedevamo una Ferrari incapace di mettersi in moto? Bravo, allora questo è il tema, perché io vi devo raccontare un fuori onda incrociato, maestro Turrini, face to face, ci siamo guardati negli occhi profondamente. Leo Turrini mi ha detto: se questa macchina la fanno partire è un missile. Questo mi ha detto. E poi io ce l'avrei, maestro. Dica. Bisogna chiedere a Kim Jong-un, che sa come si accendono i missili, sì, il dittatore nordcoreano, se dà qualche dritta a Sergio Marchionne, così in questa maniera riusciamo a accendere la Ferrari. Che cosa ti devo dire? Oppure, se fossero chiusi i canali di comunicazione con Pyongyang, appelliamoci a Donald Trump, The Donald, perché qui la macchina si è visto anche in Malesia, infatti il capo si è dal fondo, ha fatto un rimontone, hai capito? Un rimontone. Certo. Sì. Resta il fatto che mi sembra un paradosso piuttosto ridicolo, no? Cioè, una macchina di Formula 1 che va fortissimo e non si accende, che la usi per fare, la metti in salotto. Cosa vuoi che ti però dica, il gran capo si è pure discretamente incazzato, Sergiato Seisao Marchionne, dicendo: era domenica da doppietta. Io concordo, era domenica da doppietta questa. Allora, guarda, io, vedendo le immagini del weekend con tutti questi problemi che si accumulavano sulle due Ferrari, senza essere un profeta, ho immaginato quello che poi il presidente Marchionne ieri a Rovereto ha provveduto a confermare, che c'era stato un problema a monte, non Zembolo, non è colpa di Montezemolo, nel senso che evidentemente qualcosa non aveva funzionato nel controllo di qualità, diciamo così, dei pezzi. Perché lì non è che la macchina si è rotta perché le stavano tirando il collo, perché, hai capito? Praticamente sono tutte situazioni, anche quelle di Seb al sabato, verificatesi da fermo. Allora non è una bella cosa, Infatti quando ieri Marchionne ha detto c'è stata una qualità della componentistica, per usare le sue frasi, non all'altezza della situazione, allora uno si chiede: ma i fornitori chi sono? Esatto. Qui ci vorrebbe la VAR, chi sono i fornitori e soprattutto chi fa il benedetto controllo di qualità, perché purtroppo tu, che sei un uomo saggio, non ho capito se la pensi come gli juventini o i non juventini. Intanto ti dico che il giudice sportivo ha multato e squalificato il direttore sportivo della Juventus Paratici per insulti ed ingiurie verso il VAR, e questa notizia arriva ora. Ho capito, adesso io non voglio entrare nella materia, perché è scottante questa. E poi stiamo qui sulla Piero Cormano fermi tutti ad aspettare che arrivi un vigile urbano con il VAR per capire chi ha ragione e chi ha torto in questo tamponamento. Se ci fosse Paratici non so come andremmo a finire, hai capito? Certo. Tipo il film Il Vigile di Alberto Sordi, ma lasciamo perdere. Dato che sono di un'ignoranza feroce, vorrei che mi rispiegassi controllo qualità. Allora, arriva, i pezzi sono difettosi oppure non li hanno controllati bene? C'è un signor qualità? Allora, attenzione, naturalmente una macchina di Formula 1, non ho bisogno di spiegarlo a te, è un oggetto sofisticatissimo, chiaro, è fatto di tantissimi particolari. Guarda, addirittura Enzo Ferrari, perché poi Marchionne si spigra al fondatore, una volta disse, dopo una rottura, abbiamo perso la gara per un pezzo che costa 50 lire. Sì. Allora c'erano le lire, no? Sì. Cosa intendeva dire? Intendeva dire che si era rotto veramente un dettaglio minuscolo. No? Quando capitano queste cose è evidente che o all'origine, quindi evochiamo il misterioso fornitore, no? O comunque in sede di verifica del materiale, quando lo ricevi, poi lo installi sulla macchina e tutto il resto, qualche cosa non ha funzionato. È quella che si chiama la catena di controllo della qualità. Poi se tu mi dici facci il nome del colpevole, io ti rispondo il meteorite della pubblicità, perché io non posso certo conoscere e sapere l'identità del tizio o del gruppo di persone che in questo caso non hanno vagliato nella maniera corretta la consistenza di un pezzo, avrebbe detto Enzo Ferrari, da 50 lire. Il guaio grosso, come tu hai segnalato, essendo tu, se posso permettermi, il Lev Tolstoi, insomma il Dostoevsky della radio, eccetera, è che è accaduto in una situazione nella quale la Ferrari aveva veramente la possibilità di fare una doppietta, perché quello, appunto, che tu hai visto in Malesia, cioè, la macchina era la vero più che, è vero che Vettel ha fatto un rimontone, è vero tutto quello che dici, però è altrettanto vero che hai perso punti nei confronti di Lewis Hamilton in una domenica in cui dovevi recuperarne. Tu allarghi addirittura il discorso, caro maestro, anche al famigerato botto di Singapore, la verità malinconica, e qui ci vorrebbe veramente la VAR, è che in due gare Vettel poteva fare 50 punti, sì, e ne ha fatti 12. E certo, questo è il punto. Il nostro sospetto da ferraristi, dico, è che il mondiale sia scappato via in queste due domeniche. Una volta per un incidente al via e l'altra per questo problema, come abbiamo appena finito di raccontare, di componentistica. Perché sinceramente la macchina ti ha dato la sensazione, ripeto, di essere la migliore del lotto. Certo, ci sono ancora 5 gran premi, tecnicamente, mettiamola così, teoricamente, se Vettel le vincesse tutte, certo, dipende dalla Ferrari. Se Vettel le vincesse tutte sarebbe campione, Per cui il destino ce l'hanno ancora nelle loro mani, Vettel, gli ingegneri. Certo che immaginare di vincerle tutte e 5 quando ne hai vinte 4 su 15 richiede uno sforzo di fantasia come quello di noi interisti quando diciamo che la squadra di Spalletti è da scudetta, hai capito? Che è chiaro che si tratta dell'immaginazione al potere, no? Perché insomma, se vinciamo il campionato quest'anno con D'Albert, io non so. Cioè, scusa, chiamiamola VAR, via, perché questo tamponamento sulla Piero Cormano non si riesce a ripartire. Facciamo intervenire la VAR per capire chi ha fatto la manovra sbagliata, se no non si arriva a Paratici della Juve, dopo qua finisce una zuffa gigantesca. C'è qualcosa che lei, caro, io che posso farlo, lanci un appello via Ettore, hai capito? Faccia venire qui Riccoli con l'apparato della VAR, vogliamo rimetterci in viaggio, siamo bloccati come Raikkonen sulla griglia di partenza di Sepang. Vabbè, doveva andare così. Ma visto che ti sei tirato la zappa sui piedi prima di salutarti, Turrini, Inter. Allora, allora, una squadra che fa 19 punti su 21, cosa puoi dire? Appunto. Poi dopo, se guardi le partite, rimani un attimo basito, ecco, perché non è che la quantità di punti corrisponde esattamente alla qualità del gioco, no? Però, sì, come si suol dire, no? Se fai punti giocando maluccio, quando poi semmai dovessi cominciare a giocare, non voglio dire bene, ma almeno decorosamente, no, non lo so, è divertente che l'Inter abbia gli stessi punti della Juve, questo sicuramente, vista la diversa qualità. Ma io non capisco perché il popolo nerazzurro è così incontentabile, perché no, ma sono felicissimo, ho detto semplicemente sei in minoranza, è fatica credere però che sia un organico, diciamo così, da scudetto. No, poi non la lo classifica è bellissima, non Spalletti sta facendo un lavoro sicuramente splendido, soprattutto, ecco, questo mi sento di dirtelo, come spiegate voi che avete studiato, io sono solo un cronista di periferia ormai rincoglionito, sulla mentalità, perché l'Inter quest'anno, almeno finora, riesce a vincere partite che in passato avrebbe tranquillamente perso, ecco, sì, questo sì, questo certamente. Questo io credo sia un merito dell'allenatore. D'altronde una volta io vidi, forse te l'ho già raccontato, Spalletti a Baia Blu un'estate, quando lui allenava l'Empoli, no? Nella zona di Lerici, giocava ping pong tutto il pomeriggio con i ragazzini della spiaggia. Se uno di questi ragazzini si azzardava a batterlo, lui si incazzava come una bestia. Cioè proprio gli si gonfiava la vena nel collo. Questo veramente ha una mentalità vincente, hai capito? Certo, se riesce a trasmettere certo. Dal ping pong anche a Santone Ranocchia, siamo a posto. Ecco fatto. Ma no, ma dico una cosa, per chiudere, se dovesse vincere lo scudetto il Napoli, mettiamo, lei scriverà sui suoi prestigiosi quotidiani o dirà in TV: ecco, come quando ha vinto lo scudetto il Verona, c'era il sorteggio degli arbitri ed ecco che vince lo scudetto il Verona, arriva il VAR ed ecco che vince lo scudetto il Napoli? No, beh, adesso lei, caro Gente, dica. Spinge su terreni della provocazione inaudita. Cioè, io mi auguro per il bene... Se vuoi faccio il democristiano, ma non mi viene bene. No, mi auguro per il bene dei napoletani che ce la facciano, perché veramente, ecco, contrariamente all'Inter, quando tu vedi giocare la squadra di Sarri ti diverti. E se vincono il campionato, quelli che fanno vedere il calcio più divertente, spettacolare, eccetera, è una cosa bellissima per lo sport, a prescindere dal senso di appartenenza. Quindi qui, scusa, è arrivata la VAR, oh, meno male, è arrivato il vigile, c'è la VAR, ha fatto il gesto, sai? Sì, adesso lei controlla, non si riesce a capire, ma c'è un sì, c'è una tele, sì. Ci fanno ripartire, fra un po' ci dicono se ha sbagliato quello davanti o quello di dietro, hai capito? E allora puoi ripartire. Ciao Leo Turrini. Buona giornata, ciao. Allora ragazzi, state lì, adesso c'è il traffico. Poi parlavamo di Napoli, si avvicina per il Napoli la settimana della verità e abbiamo già in linea il professor Marino Bartoletti. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Tutti convocati. So here we are, we are alone, this weight on your mind, and I wanna know the truth. I want the truth from you. Give me the truth, even if it hurts me. I want the truth from you. Give me the truth. Rino, lo so che tu avresti scelto Dimmi la verità, ma io sono andato sul poetico. Che vuoi che ti dica? Piango e taccio, poco da scherzare. Allora, visto come che siamo... la VAR. Aspetta, ne parliamo dopo, fai il bravo. Prima voglio rimanere su questo, in questo ambito poetico. Napoli, tu hai raccontato, hai vissuto l'89, la Napoli dello scudetto. Vivi oggi, sì, vivi oggi questa Napoli. Regalami una suggestione. Sì, mi trovo a Napoli in questo momento. Devo dire che c'è una consapevolezza e una maturità che forse non c'era neanche allora. Tra l'altro proprio oggi ho visto un protagonista di quello scudetto, che è uno dei pochi che fece il bis, cioè Ciro Ferrara, perché in realtà tutti pensano che sia stata la stessa squadra a rivincere, ma in realtà erano soltanto tre o quattro: Renica, Diego, De Napoli, Ferrara e un nuovo allenatore che era Bigon rispetto a Bianchi. Vedo maturità, consapevolezza, vedo anche, come dire, realismo, perché poi certe scottature ovviamente hanno fatto credere che quel miracolo non si potesse ripetere più, e io stesso, devo dire che vissi proprio da cronista quei giorni, credevo che senza un demiurgo Napoli non avrebbe più rivinto uno scudetto, ammesso che lo vinca naturalmente, però le basi per farlo le ha gettate. Questa volta sembra che il progetto sia vincente, diciamo che il Napoli si è messo in condizioni di rivincere il suo terzo scudetto, e questa è una cosa decisamente molto importante. Io l'unico consiglio che posso dare al Napoli, ma è il consiglio che do poi a tutti i tifosi d'Italia, e questo poi ci può portare anche su un altro argomento, è di guardare alla propria strada, al proprio campionato, di non pensare sempre a saltare se qualcuno qualcosa non è. La consapevolezza e la maturità nascono dalla forza della, come dire, della capacità di raggiungere un obiettivo. Se cominci a guardare agli altri, se cominci a guardare ai complotti, se cominci a girare la testa, è come un corridore che a 100 metri dall'arrivo si gira e fa male, perché in quel momento qualcuno potrebbe girarlo. È una forma di debolezza a cui chi aspira allo scudetto, si chiami Napoli, si chiami Juventus, si chiami Inter, assolutamente non può prescindere. E poi c'è la dittatura dei numeri, che conta e non conta, perché in effetti sono delle statistiche impressionanti che favoriscono il Napoli in Europa addirittura in questo momento. E poi, lasciamelo dire, c'è un allenatore per cui io sinceramente stravedo. Ancora una volta in testa al campionato ci sono tre allenatori toscani, sono gli stessi dello scorso anno, solo che uno ha cambiato squadra. Famigerata scuola toscana. Marino, sempre sul Napoli, e poi andiamo su un altro argomento su cui hai scritto un post sul famigerato Facebook ieri, e sappiamo tutti di cosa parliamo, però the truth, la settimana della verità sarà quella dopo la sosta della nazionale. Roma-Napoli, City-Napoli, Napoli-Inter, tutto in 7 giorni. Ti ricordo anche che il mio biografo napoletano Giorgio De Luca è precisissimo in questo. L'anno scorso fu l'ottobre nero a condannare il Napoli, si fece male Milik, iniziò il balletto con Gabbiadini prima di scoprire Mertens, e il Napoli perse in casa con la Roma, a Bergamo, in casa con i Besiktas in Champions League, e poi alla fine del mese a Torino con la Juventus. 3 sconfitte delle 4 totali in stagione. Già cominciava a pensare anche alla Coppa d'Africa. Guarda, lasciami anche dire che queste partite sono veramente uno scherzo di bassa lega, e quando dico bassa lega intendo la Lega Calcio, perché non è possibile che la Lega Calcio, cioè la famosa Confindustria del pallone, non abbia un presidente, come se Radio 24 o il Sole 24 Ore non avesse il direttore, o la Gazzetta non avesse un direttore, e non è possibile che si facciano dei calendari che alla vigilia di 2 importanti partite di Coppa, per non parlare degli appuntamenti della Nazionale che sono pianificati a 4 anni, preveda incontri che fatalmente saranno importanti, perché comunque parliamo delle prime 6 che si incrociano fra di loro. Quindi già su questo permettimi di puntualizzare, perché Sarri sì, ogni tanto soffre di mazzarrite, sempre meno per la verità, però quando dice che comunque un pochino d'ordine fra nazionali e quant'altro ci dovrebbe essere, non ha assolutamente tutti i torti, e non parla soltanto per il Napoli. In quanto al declino, allora è chiaro che chi vede il bicchiere mezzo pieno dice il Napoli fino adesso, a parte la Lazio, ha battuto soltanto squadre di medio-bassa classifica, ed è vero, però è su quelle squadre di medio-bassa classifica che si è giocato, non dico lo scudetto, ma il secondo posto lo scorso anno. Adesso qui si parrà la sua nobiltà, perché arrivano veramente gli scontri diretti, e a questo punto il famoso gioco più bello d'Europa dovrà misurarsi anche col pragmatismo, con la durezza del fatto che gli altri al Napoli ora come mai non vogliono concedere assolutamente nulla. Allora, Marino Bartoletti, andiamo al post di ieri su Facebook tuo, e andiamo su questo argomento. Te lo condisco, ovviamente. Juventus contro il VAR, inteso come concetto generale, Buffone e Allegri, due uomini più rappresentativi del club sul campo, che strillano e urlano contro l'uso della tecnologia. Oggi arriva la notizia, carico da 90, del direttore sportivo Paratici, squalificato, perché è andato giù duro con la VAR criticandola, il che vuol dire grosso modo che è andato nel gabbiotto dove c'era la televisione e ha sbroccato, più o meno. Questo, no? Mi fa ridere, perché mi ricorda quando da Via Teulada negli anni 60 chiamarono Edoardo De Filippo e dissero qui alla televisione, lui rispose aspetti che le passo il frigorifero. Quindi attenzione, diamo senso a tutto. Allora, mi rifaccio a quello che ha detto il maestro Turrini prima: la Ferrari lasciala partire e vince, la VAR lasciamolo partire e indubbiamente ha qualcosa di buono sta portando. Guarda, parli con un vecchio romantico che sicuramente è molto era molto diffidente prima, perché è legato, certo, a un certo tipo di calcio. L'imperfezione a me non dispiace, tu lo sai. Sì, sai, vedere giocatori che si abbracciano dopo un gol e poi gli dicono no, guardate, abbiamo scherzato, è un vero e proprio crudele coitus interruptus. Certo. Vedere giocatori che per 4 minuti aspettano che l'arbitro conferisca con l'uomo VAR, sì, che guardi gli highlight e forse anche la pubblicità, che alla fine ci faccia sapere com'è andata, beh, voglio vedere sotto la neve come ce la caveremo. Sì, noi siamo uomini di spettacolo, può essere un fattore di spettacolo. Quanto, detto tutto questo, Carlo, quanto, la VAR ha oggettivamente eliminato, secondo statistiche attendibili, l'80% degli, certo, errori. Certo. Dopodiché, se poi dobbiamo veramente discutere su tutto, se dobbiamo perdere la testa su una partita, tu hai citato il mio post di ieri, che era un post, come hai visto, come sempre, ironico e, certo, anche di buon senso. Certo. Il 60% di persone hanno risposto a tono, nel senso che si sono adeguati a questo tentativo di civiltà sportiva. Qualcuno ha anche questionato, portando avanti i suoi argomenti. Interessi di partite, di bottega. Certo. Hanno perso la testa completamente. Cioè, c'è una partita che ha fatto perdere la testa completamente a qualcuno, fino a negare l'evidenza. Veramente anche l'evidenza. Io credo che su alcune cose di Atalanta-Juventus si possono discutere, compreso il rigore non dato di Higuaín, ma quando qualcuno, che so, nega il fallo di Lichtsteiner nei confronti di Gomez, no, allora no, vuol dire ma, che... Ma l'applicazione dello strumento è stata perfetta, cioè a termini di regolamento, di protocollo di applicazione, piaccia o non piaccia, quanto al problema della perdita di tempo, Marino, sarebbe molto semplice: prendi il foglio del protocollo e scrivi una riga, che è questa: nel momento in cui interviene la VAR, l'arbitro stoppa il cronometro. Sai che lo fanno in qualche altro sport che noi abbiamo? Ma, va, ma davvero? Ma sì, non mi ricordavo più. Te l'hanno detto. Una volta frequentavo i palazzetti, c'erano i cronometri, sai, quelle cose obsolete, no? Non sarebbe difficilissimo questo insomma, se vogliamo essere contemporanei lo siamo. Senti, ma quanto alla posizione della Juve? Ma chiaramente si è molto innervosita per questa cosa, però vale, e un po' mi dispiace, non critico particolarmente le parole di Buffon, che in realtà richiamava, come dire, un romanticismo, mettiamola così, a cui anch'io mi rifaccio. Ho visto Allegri molto nervoso, veramente molto nervoso, e questo mi è dispiaciuto, perché è un uomo che sa reggere molto bene le emozioni ed il microfono. Però aiutatemi a capire, perché ogni tanto io perdo la bussola, in questo paese chi complotta contro chi? Perché se ti giri un attimo, poi ti accorgi che i complottanti e i complottati cambiano ogni domenica, beh, allora vuol dire che forse siamo sulla buona strada, che in fondo è quella di una faticosa onestà. Proviamo a vederla così. Guarda, la Juve secondo me è stata danneggiata contro il Genoa. Vuoi che ti dica chi è stato danneggiato fino adesso? Sicuramente la Fiorentina dalla VAR, sicuramente il Torino, forse contro il Genoa la Juventus, in un caso che ricordiamo tutti. Dopodiché poi su Atalanta e Juventus si può discutere per tutta la vita, si può anche dire che la Juventus vinceva 2-0 e aveva saldamente la partita in pugno e si è pareggiato. Sinceramente non è solo colpa della VAR, forse anche per merito di Gasperini, che dici? Sì, dico che Gasperini è un signor allenatore. Un'ultima cosa, allora, innanzitutto fammi rispondere a un WhatsApp del presidente Urbano Cairo, che interverrà dopo la borsa, e così lo annuncio e lo intrappolo. Perché io voglio capire da lui se esiste un asse di Torino contro lo strumento tecnologico. Perché il Toro di punti in 7 giornate ne ha persi 4. Sarebbe a 16, a quarto in classifica con la Lazio. Un'ultima cosa al volo, Marino. Non lamentarsi, però si tratta sempre, ripeto, di accettare con cultura e civiltà quello che la modernità ci sta offrendo. Senti, Montella, ieri altro incontro, c'è un derby che incombe, c'è una fiducia rinnovata, ma forse pro tempore, c'è Ancelotti che dice comunque per 10 mesi vado in vacanza a pescare salmoni, che succede? Ma va a finire che Rummenigge è d'accordo con Fassone, perché sai, complotto per complotto succede di tutto. Io non credo che Ancelotti potrebbe accettare il Milan in corsa in questo momento, e credo che, stimo Fassone come dirigente, e credo che abbia la maturità per capire che comunque... data la collezione di figurine Panini a Montella, ci sono anche degli intoppi inevitabili su cui si può anche inciampare. Certamente il derby diventa una sliding door molto molto molto importante. Guarda, io sarei più preoccupato se fossi nell'Inter che non nel Milan per il derby, perché è chiaro che il Milan porta in campo una rabbia che potrebbe essere irreversibile. Grazie Marino, è un ti abbraccio, ciao, forte, ciao. Marino Bartoletti, allora ci fermiamo per la borsa e subito dopo il presidente Urbano Cairo. Va bene, signori? 800240024. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. 4 ottobre 2017, Radio 24, compie 18 anni. A 18 anni? A 18 anni vivevo già da solo e facevo esattamente quello che mi pareva. A 18 anni leggevo soprattutto per dovere, ora per puro piacere. Io a 18 anni cercavo il mio equilibrio funambolico sul filo della vita. Radio 24, da 18 anni, racchiude tutto questo. Una generazione di stimoli per la mente. Grazie a voi che ci avete sostenuto, amato, odiato e soprattutto ascoltato. Raccontateci perché vi piace Radio 24. Scrivetelo a buoncompleanno@radio24.it e 18 di voi potranno assistere dal vivo alle dirette della radio. Radio 24, il sole 24 ore. Nata con carattere. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, io saluto innanzitutto Pierluigi Pardo che è arrivato. Eccolo. E poi soprattutto saluto e ringrazio il presidente Urbano Cairo. Buongiorno Press. Buongiorno a voi. Buongiorno. Come va? Beh, come va? Bene. No, appena perso un paio di punti con il VAR. La vita va avanti. La vita va, però. Poi i ritmi di Cairo sono talmente veloci. Che, cioè, domenica è preistoria. Esatto, è preistoria. Però sarà preistoria anche quella partita con il Bologna-Torino 1-1. Insomma, il Toro è onestamente forse la squadra più penalizzata, miei cari, da questo strumento tecnologico contro il quale la Juventus si è scagliata, ricordo notizia del giorno, squalifica per DS Paratici perché è andato nello stanzino delle televisioni e ha dato i numeri. Presidente, come la mettiamo? Quei 4 punti vorrebbero dire 16 per il Torino, vorrebbero dire 4 posto insieme alla Lazio, che è una squadra meravigliosa che ogni giorno io e Pardo magnifichiamo. E allora? Ma io diciamo... indipendentemente adesso dal fatto che la VAR purtroppo ci ha penalizzato ingiustamente per due, anzi forse tre volte, perché ci ha tolto il gol di Bologna che era buono se non avesse fischiato l'arbitro, quando invece il Guardalini è correttamente, o meglio il Guardalini ha segnato il fuorigioco, l'arbitro fischia, in realtà dalla VAR non era fuorigioco ed era gol buono. Sì, così come certo. Prima ancora c'era un rigore su Belotti, ma in quel momento lì la VAR a Bologna non funzionava. E vabbè, in questo caso uno dice pazienza, è la prima giornata. Poi abbiamo fatto domenica scorsa con il Verona, lì c'era un fuorigioco per un piede di Kin che era in fuorigioco, e poi qui addirittura succede che la Gazzetta, che è il mio giornale, dice che ma no, non era fuori gioco, e invece tutto Sport correttamente dice era fuori gioco, per dire come che editore liberale che sono, e c'è una orecchia per intendere però. Intenda No, su questo non ci sono dubbi. Quattro punti, no, e quindi insomma la VAR purtroppo ci ha molto penalizzato. Poi però devo dire una cosa, la cosa che mi preme anche di più ancora, e cioè ci stanno massacrando Belotti, cioè io dico, passi il fatto che la VAR ci penalizza, che gli arbitri in questo caso non vedono le cose che accadono, e vabbè, può succedere, mi spiace perché la VAR dovrebbe essere un grande aiuto. Ma io dico, arbitri, faccio un appello, ma cercate di proteggere e tutelare un pochino di più Belotti, perché sono partite dopo partite che viene costantemente malmenato e nessuno dice nulla. E tant'è che poi avete visto cosa è successo domenica, il giocatore adesso non può andare in nazionale, è infortunato per 4 settimane ed è una penalizzazione sicuramente per il Torino ma anche per la nazionale. Allora sì, dico, arbitri, assistenti, uomini della VAR, guardate che succede a Belotti, lo stanno picchiando sistematicamente. 40 questa giorni è la cosa che ci tenevo di più a dire, a parte la VAR che ci ha tolto 4 punti, mi dispiace, speriamo di recuperarli velocemente. Ma la cosa peggiore è che stiano picchiando il povero Belotti, che è un grande centravanti, non soltanto del Toro, ma anche della nazionale, sì, e che purtroppo viene. E quindi chiediamo tutela per Belotti, tutela per i campioni. Ma però io voglio capire ancora una cosa, poi la lascio a Pardo. Allora, la VAR vi ha tolto, il VAR vi ha tolto 4 punti. Ma formiamo un asse torinese contro la tecnologia oppure No. Io rimango convinto che la VAR sia una buonissima innovazione, che vada perseguita, che vada messa a punto, però per esempio gli arbitri, sapendo che c'è la VAR, aspettino a fischiare, perché a quel punto lì, se fischi, l'azione si interrompe, lasci andare avanti il gioco, si chiude l'azione, fai gol, vediamo la VAR dice che non era fuori gioco, come nel caso di Bologna, e convalida il gol. O nel caso invece di Kin, per la VAR purtroppo lì, non so, è stranissimo che abbiano tirato delle linee che alla fine hanno non erano le linee giuste, perlomeno secondo quanto ho sentito a Sky domenica, ho letto su Tutto Sport, non ho letto su Gazzetta. No, anche Cesare, anche Cesare assolutamente. E anche Cesare. No, beh, ma non è che ci voleva tanta scienza, cioè la linea è quella e si vede che comunque. No, la cosa del fuorigioco è un baco del sistema ed è una cosa che andrebbe sistemata. Fra l'altro, ironia della sorte, io ho avuto la conversazione la sera di Juve-Cagliari, quindi era la prima sera del campionato, il giorno prima di Bologna-Torino, con l'arbitro di VAR di Juve-Cagliari, che mi diceva che una delle indicazioni che era stata data a tutti gli arbitri era quella, in caso di fuorigioco, di aspettare, perché altrimenti il sistema non funziona, un po' come il discorso di Benevento-Inter. Bravissimo, esattamente, è così. Però poi se non lo fanno. Devi aspettare di vedere che finisce l'azione, a quel punto lì hai segnalato fuorigioco non c'è, gol dato. Però se hai interrotto il gioco non puoi più dare il gol. È chiaro. Quello è il tema. No, mi rendo conto. Io mi rendo conto. Non voglio colpevolizzare nessuno, perché evidentemente è un modo nuovo di arbitrare anche, e quindi chiaramente anche l'arbitro deve prendere le misure. Però ormai siamo alla settima giornata e insomma credo che sia giusto che uno abbia imparato. Ecco, poi non mi piace neanche fare questi discorsi, perché io rispetto quello che fanno gli arbitri, però adesso c'è anche la VAR, che è uno strumento tecnologico e io lo utilizzo. Quindi non stiamo sulla linea della Juve, il Toro non sta sulla linea della Juve. La Juve ha fatto un discorso complessivo, no? È una buonissima innovazione, ci credo fortissimamente. Perfetto. È un modo per aiutare i direttori di gara, che ovviamente si trovano a fare un lavoro in condizioni di velocità assolute, quindi avere un ausilio tecnologico è certamente una buonissima cosa, quindi mantengo la totale convinzione che la VAR funzioni. Chiaramente siamo all'inizio, c'è qualche messa a punto da fare, il Torino si è candidato per essere una delle vittime della messa a punto. Beh, è nella storia del Toro, i tifosi del Toro sicuramente ci farebbero dell'autoironia. E mancano questi 4 punti, il giudizio complessivo sull'inizio di stagione lo si può dare comunque con ottimismo? È soddisfatto? Ma io direi di sì, appunto, a parte i punti mancanti, però poi succede, ma comunque c'è stato un buon inizio, siamo a 12 punti, siamo al sesto posto a pari merito con il Milan, quindi non è male, però insomma certamente si può fare anche meglio, sicuramente penso che si stia trovando e stiano lavorando, diciamo, il nostro mister, che è super motivato per fare le cose al meglio, per apportare eventuali correttivi qualora ce ne fosse bisogno, e però insomma direi che la partenza è buona, speriamo di migliorare ancora di più, perché chiaramente per noi l'obiettivo è di fare le cose ancora meglio e ottenere ancora più punti, visto che li avremmo meritati. E visto che 16 non basta, 16 potenziali non bastano. Presley, che ruba ancora 2 minuti, può? Prego. Allora, borsa, traffico, torniamo subito col presidente Urbano Cairo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Allora, caro amico mio Pierluigi Pardo, abbiamo in diretta il presidente del Torino Urbano Cairo, che ha detto ben venga la VAR, anche se ci ha ladrato un... ladrato, no. Se no, ci no. Ha sottratto, se ci 4 ha... punti. Usa la parola che vuoi, il verbo che vuoi. 4 punti. Ha detto Mihajlovic, bene così, ha detto tutteliamo Belotti. Sì. Cosa possiamo aggiungere? Sullo scudetto sarebbe contento, insomma, se fosse l'anno di De Laurentiis, il suo amico De Laurentiis. Beh, insomma, Napoli sta facendo un grande calcio, sta giocando bene, sta divertendo, sta facendo un sacco di gol, insomma, credo che stia mettendo una buona, non dico ipoteca, perché siamo all'inizio, quindi evidentemente poi c'è la Juve che è molto forte, però si sta candidando, ecco, perlomeno quello si sta candidando, poi vedremo come andrà a finire. Una cosa che volevo dire ancora, siccome sento continuamente parlare, se non andassimo ai mondiali, una catastrofe di qua di là, ma dico, ma pensiamo a giocare e a vincere le partite e ad andarci ai mondiali, non cominciamo subito a fare tutti questi giochi dei sé e dei Beh, dei ma l'ha detto anche il suo ex allenatore, nonché amico, Giampiero Ventura, sarebbe una catastrofe. L'ha sentito recentemente, l'ha vista? No, appunto, in questo caso dico anche a lui, visto che sono in rapporti eccellenti con lui e gli voglio bene, non pensiamoci neppure, pensiamo soltanto a giocare, a fare bene, a vincere le partite come possiamo fare e ad andare ai mondiali. Non ci pensiamo neppure, non la prendiamo come cosa. Assolutamente. Poi no, va a finire che non ci azzoppassero il centravanti, sarebbe pure meglio, Cioè, non ci azzoppassero il centravanti. Ma allora lì ritorniamo all'inizio, tutelatevi però. Che mi pare il tema che le sta più a cuore. Mi sembra corretto. No, ma io volevo prima, non so se Pier poi ha un'altra domanda. Io ho questa. Mihajlovic va bene, sta facendo un eccellente campionato. 12 punti che si leggono 16 e torniamo lì. Ma però mi perdoni, presidente, mi consenta di fare il malizioso fino in fondo. Quel derby non l'ha preparato bene, perché in quel il Torino l'ha caricato talmente tanto che lo ha affievolito. Ma no, diciamo che non è vero, secondo me no. Il derby non è giudicabile, perché giocandolo in 10 per troppo tempo, secondo me non si può dire se il Torino poteva poi rimontare, non rimontare, eccetera. Il Toro ha ribaltato partite e poteva farlo anche allo stadio. Dopodiché forse la cosa che non avrei detto io era padroni contro il popolo, che c'entra? Non c'entra nulla. Non è piaciuto. Ma non per altro, voglio dire, perché non è una cosa, cioè non c'entra, non è l'argomento di Mihajlovic. Mihajlovic sa fare bene un mestiere, che prima faceva il calciatore, lo faceva benissimo, e adesso fa l'allenatore e lo fa altrettanto bene. Però non ti mettere in queste cose politiche che non c'entra nulla. Questo dico, ecco, se vogliamo, ma non perché ha caricato i giocatori o meno, ma perché è una cosa che non c'entra nulla. Ma il derby, a parte questo, prego. Poi il derby non è giudicabile, ripeto, in 10 contro 11 a casa della Juve. Avete visto che il Manchester City ha battuto il Liverpool 5-0. Sì. Insomma, quindi quando giochi in 10, per di più in quello stadio lì dove non ha mai vinto nessuno, e stavamo per vincere noi 10, pensa tu. Sì, l'anno scorso al 92esimo e fece gol Higuain, eravamo 1-0 e eravamo in 10 da mezz'ora. Però mezz'ora sì, 70 minuti troppo. Sì. Ma c'è il rischio di caricarle sempre un po' troppo queste partite? Ma direi di no. Questa volta per di più, comunque Mihajlovic non aveva neanche, a parte quella frase lì, che è una frase che poi secondo me non so neanche se i giocatori hanno colto più di tanto, ma non l'aveva caricato troppo, questa volta non l'aveva caricato affatto. Per cui in realtà poi il derby si carica da solo, perché i giocatori ci tengono, appunto, sanno quanti tifosi ci tengono e quindi evidentemente hanno voglia di far molto bene. Però voglio dire, Baselli è un ragazzo con la testa sulle spalle, ha fatto un fallo che io non gli ho mai visto fare in 2 anni e mezzo di attività. Sì, quindi probabilmente anche sfortuna, non lo so, insomma, però non è stato caricato troppo. Grazie Press, grazie. Grazie in bocca al lupo. Come sempre in bocca al lupo. E tuteliamo Belotti. Beh, quello sì. Questo ditelo sempre. Grazie. Tuteliamo i giocatori di talento, insomma, da questo punto di vista sappiamo che da tanti anni c'è un'attenzione a livello mondiale nella tutela, cioè nell'evitare gli interventi violenti, come è giusto che sia, insomma. Senti, io ti ho aspettato per parlare, ormai 3 minuti con gli ascoltatori. Omar, buongiorno. Buongiorno, siamo da Milano, grazie per convocazione. A lei, dica. Sono un tifoso juventino, ma io volevo dire, non è che non abbiamo detto niente di così eclatante, non vogliamo la VAR. Uno ha semplicemente detto potrebbe essere usata in un modo diverso, perché rigore su Higuain c'è, giusto? Mm-hmm. Il secondo, sì, ma, secondo. Ma nessuno ha fatto casino con l'arbitro strattonato. Nessuno è andato a vedere la VAR. Nessuno. E l'arbitro sul fallo di Lichtsteiner è a 3 metri. Non può non averlo visto. Non può non averlo. Sì, no, però scusate, questa cosa qui, che vuol dire? Ne abbiamo parlato, mi pare, proprio ieri. Non capisco che sia ingannevole. Cioè, per tanti anni noi eravamo abituati al principio della prova TV. La prova TV, per regolamento, veniva utilizzata nei casi in cui l'arbitro non vedeva, e quindi sarebbe giusto il ragionamento diversa, dell'ascoltatore. Qui invece, se l'arbitro vede ma vede male, c'è l'intervento da parte del VAR. Questo è il punto fondamentale, è questo. Poi indubbiamente è un caso limite, perché sono passati 12,80 secondi, e quindi è ovvio che fa un certo effetto vedere l'applicazione del VAR, anche se pure qui, a norma di regolamento, non avendo la Juve mai perso il possesso palla, non essendo uscito il pallone, c'è la continuità dell'azione, per cui il VAR è applicabile. Questo ho imparato ascoltando Graziano Cesari e rileggendo i protocolli. Detto questo, fa effetto. Poi l'altro giorno, ma guarda, io penso che le parole di Allegri dell'altro giorno e le parole di Buffon della seconda giornata sono parole complessive, generali, non sono parole di protesta. Cioè, mentre Cairo ha perfettamente il diritto a protestare, l'ha fatto con grande civiltà, devo dire, fra l'altro, perché il Toro è stato certamente danneggiato, la Juve, con i suoi due personaggi simbolo, ha fatto un discorso complessivo. Ora è chiaro. Sì, questo è più importante, no? Beh, più importante. È un discorso particolare, una protesta civile e stralogica, perché, come dico tutti i giorni, fa ancora più male quando subisci un torto col VAR, perché dici, ma com'è possibile che un arbitro... quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento invece riguarda la Juve, e la Juve fa un discorso complessivo. La Juve, Allegri e Buffon hanno fatto un discorso complessivo. Ora è chiaro che da un punto di vista di rivalità, questo tipo di discorso può ingenerare, da un punto di vista di comunicazione e di rivalità, questo tipo di discorso può ingenerare in chi non è esattamente tifoso della Juve, certo, il sospetto o il pensiero che la Juve sia infastidita dal VAR. Esatto, e questo è logico. Potrebbe, anche se il discorso di Allegri è un discorso generale, che io fra l'altro condivido pure, perché io per 2 anni l'ho detta sta cosa, che secondo me il VAR... La prima applicazione del VAR doveva essere sulle situazioni metriche. Però si sbagliano, certo, pure quelle, Luigi, perché Torino Verona sbagliano pure quelle. È per quelle che stiamo a parlare. Senti, tanto torniamo a parlare domani. Che te credi? Sa altro. Adesso vai a Firenze. Stasera vado a Firenze al Festival del Calcio. Al Festival del Calcio, che è stato organizzato a Perugia per qualche anno, e quest'anno va a Firenze. Salutami a Fiorentina. Porto un bacione. ciao a tutti, ragazzi. Grazie per Luigi Pardo, Giorgio Duca, nostro autore, Gianmarco Peronato in regia. Ciao ragazzi. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!